ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi. Non capiva nel generoso animo di Garibaldi il pensiero che per una necessità inesorabile di guerra s'avesse a bombardare una città, e specialmente una città italiana, mettendo in risico i poveri abitanti sui quali non era ragionevole il far cadere con tanta crudeltà il gastigo dei peccati altrui. Per la qualcosa, quell'uomo generoso, sordo alle sollecitudini di chi aveva furia di terminare quel noioso assedio, proibì rigorosamente che si tirassero cannonate su Capua anche nei momenti nei quali il fuoco della piazza travagliava con maggior asprezza i nostri avamposti. A questo proposito rammento che un tal giorno, mentre si collocavano in batteria sul monte Sant'Angelo certi grossi cannoni, il colonnello Giacomo Griziotti, credendo assente molto lontano di lì il dittatore, caricato un cannone, volle mandare un saluto alla città di Capua e lo mandò, dandogli fuoco di proprio pugno e carattere, come si piaceva narrare a quanti avevano voglia di conoscere quell'avventura. Il Griziotti era quello stesso che nel porto di Marsala avrebbe voluto mandare a picco a furia di cannonate le lance regie che vogavano cariche di soldati per abbordare i nostri due vapori, e non se ne tenne se non perché Garibaldi, come i miei lettori rammenteranno, gliel'aveva vietata a gran voce, rimproverandogli che per un capriccio matto volesse dar luogo a una rappresaglia feroce contro la povera Marsala. Questa volta, dunque, Giacomo Griziotti poté levarsi il capriccio di tirare una cannonata, ma appena ebbe tuonato il cannone si udì Garibaldi, sbuccato non so di dove, gridare: «Chi è quello sciagurato che tira? Chi è che tira contro mio ordine?» E Griziotti, udita quella voce che faceva paura a tutti, anche a quelli che il dittatore aveva in maggior benevolenza, inforcato il cavallo se ne fuggì via come il vento, e venuta a Caserta mi raccontò con le più pazze risa del mondo il suo caso. Ma quando furono giunte dinanzi a Capua le truppe del generale della Rocca, e cominciarono insieme con noi a stringere più da vicino la piazza, Garibaldi non fu più padrone di impedire che Capua si bombardasse, e i preparativi per quel negozio si cominciarono di concerto fra i due eserciti assedianti. Tralascerò di raccontare i fatti d'arme che si combatterono sulla linea degli avamposti sino al giorno 30 d'ottobre, e dirò soltanto che Capua fu bombardata nella sera del dì 1 novembre. Il fuoco delle nostre batterie doveva aprirsi alle 4. Verso le 3 Garibaldi montò a cavallo sulla piazzetta di Sant'Angelo e se ne venne verso Santa Maria per andarsene a Caserta. Comandava allora un battaglione del reggimento di Griziotti, che fu il primo della brigata Basilicata, e dovevo passar la notte presso il cimitero di Santa Maria. Quando Garibaldi comparve in fondo alla strada, fece pigliar le armi ai soldati per salutarlo. Garibaldi, giunto in faccia al battaglione, fermò di botto il cavallo e mi fece cenno che m'avvicinasse a lui. «Vedete?» mi disse, «vogliono bombardare a tutti i costi, e io me ne vado via, perché non ho cuore di assistere a tanto barbaro spettacolo. Nessuno deve aver diritto di chiamarmi bombardatore». E strettomi la mano, salutò i volontari, gridando loro, con quella sua voce che innamorava, «Addio, figliuoli, addio!» I volontari ruppero tosto le righe e con le armi in mano gli furono attorno, e tutti volean baciargli la mano o per lo manco le vesti o le stoffe, ed ei dovette spronare il cavallo e spingerla al galoppo per liberarsi da quell'affettuoso tumulto. Verso le 10 sapemmo che i borbonici stavano capitolando. Poco dopo si disse che s'eran resi a patti con gli onori delle armi. La mattina che seguì vedemmo 10.000 soldati del Borbone escir dalla porta di Capua e deporre le armi sul campo degli esercizi e rendersi prigionieri ai reggimenti del nostro esercito regolare. Caduta Capua, il nostro compito era finito. L'esercito regolare s'apparecchiava a circondar Gaeta, Re Vittorio si avvicinava a Napoli, e Garibaldi non vedeva l'ora di tornarsene alla sua Caprera, dalla quale era lontano da parecchi mesi e dove l'aspettavano i giocondi riposi, all'ombra d'una gloria incontaminata ed invidiabile. Ormai cominciava anch'egli ad accorgersi che noi non eravamo più se non ospiti importuni, colà dove pochi giorni innanzi fummo soli di fronte al nemico e soli, a gridare al mondo che non c'erano più due Italie, ma una sola Italia, un sol popolo ed un sol cuore. L'esercito regolare ci guardava tutt'altro che con occhio di simpatia. Le nostre lacere camicie rosse parevano far orrore ai generali carichi d'argento, pei quali non eravamo se non fortunati scorridori, usurpanti il nome e le insegne della vera e buona milizia. Ricordo, e giova ricordarlo, che due giorni dopo la resa di Capua, Giacomo Medici volle visitare la città e si presentò alla porta, seguito da alquanti ufficiali della sua divisione, tra i quali fui io che scrivo. Il Medici era vestito con una tunica nera ed aveva al berretto le insegne del suo grado eguali a quelle dell'esercito regolare, e non fu uomo che, guardandolo, potesse pigliarsi per uno scannapagnotte o per un soldato da processione. Pure, diversi ufficiali dei granatieri che erano seduti presso la porta della città lo guardarono in viso poco men che ridendo, e non degnarono di alzarsi e molto meno di dargli il benvenuto. Onde ei divenne rosso come il fuoco, e fu lì lì per saltar fuori dai gangheri, e non s'astenne dall'agnarsene con noi dicendoci: «Vedete che accoglienza ci fanno costoro, neanche se fossimo tanti poltroni!» In quei giorni ci fu detto che Re Vittorio sarebbe venuto a vederci. Infatti stemmo una mezza giornata intiera sotto le armi e schierati in quell'ordine che si poté migliore per aspettare la visita del Re d'Italia. Ma alla sera tornammo agli alloggiamenti senza che egli ci avesse visti. Bene è certo che il Re aveva fisso di venire a farci una visita e ci sarebbe venuto veramente se certi gran sapientoni che aveva d'intorno non gli avessero dimostrato la sconvenienza di quella visita, facendogli chiaro che non era degno di un re il percorrere a cavallo le file di quei nuovi sans-culottes e di far loro festa quasi che fossero soldati suoi. Garibaldi si afflisse non mediocremente di questo fatto, ma non ne accagionò mai il re, anzi, disse ripetute volte: «Povero re, vedete che cosa gli fanno fare?» Ma la più grande e amara delusione che ebbe fu quella del veder dileguato il suo bel sogno dell'affratellamento delle camicie rosse coi cappotti turchini per seguitare la guerra. Quell'anima generosa non sapeva capacitarsi che con la resa di Capua avesse a finire il compito suo, e che con la presa di Gaeta avesse a terminarsi la guerra e si dovessero deporre le armi lasciando il Papa a Roma e gli austriaci in Venezia. Perciò, negli ultimi giorni che rimase tra noi, lo vedemmo triste e taciturno, e non si udirono da lui se non parole dalle quali traspariva un acerbo rammarico contenuto a gran stento nel cuore. Per l'ultima volta egli vide quel suo piccolo ma glorioso esercito il giorno 6 di novembre, quando lo adunò sulla gran piazza di Caserta per dargli il suo addio. Ma egli non ci disse addio, ci disse arrivederci, e 10.000 voci gridavano: «A marzo! A marzo!» E per vero, non era tra noi chi non sperasse di rivedere fra pochi mesi una nuova Marsala. La mattina del giorno 7 entrò in Napoli Vittorio Emanuele. Pioveva a dirotto, ma la città era festante come in una giornata di bel tempo. Credo che quel giorno la gran metropoli fosse popolata del doppio. A descrivere la gioia dei napoletani non c'è lingua che basti. Io vidi la carrozza del re sulla piazza del plebiscito. Il re aveva alla sua sinistra Garibaldi, vestito del solito suo abito, col suo fazzoletto sulla spalla e col suo invariabile cappello in testa. Il re e il dittatore parlavano insieme sorridendo e salutavano con la mano la immensa folla che gridava «Viva d'ambedue!». Scesi che furono di carrozza, salirono in palazzo e parecchie volte comparvero al balcone. Un'ora dopo, Garibaldi si accomiatò dal re e nello scendere nel cortile del palazzo udii che salutando il mio colonnello Griziotti gli disse «Caro Griziotti, ho finito», ma non aveva finito ancora. Il dì seguente dovette tornare in palazzo e quindi consegnò al re il solenne plebiscito e udì offrirsi croci, pensioni ed un grado altissimo e di nuovo conio nell'esercito, premi tutti che ricusò, dicendo che l'aver fatto il suo dovere non gli dava diritto ad alcuna ricompensa. Quando uscì dalla sala del trono, egli era tuttavia il generale Garibaldi e non il maresciallo Garibaldi come i consiglieri di Vittorio Emanuele avrebbero voluto che fosse. Fu notato allora e fu degno di nota anche in seguito che Vittorio Emanuele non scrisse mai un ordine del giorno all'esercito dei volontari che pure aveva intrapreso quella guerra in nome suo, ma lo fece scrivere al generale della Rocca, i cui elogi suonarono ai nostri orecchi come lodi strappate dalle leggi della convenienza alla bocca di Cotale, che non vedeva l'ora di saperci andati tutti con Dio alla buon'ora o alla cattiva. Però, se il re non degnò d'una sua parola le povere camicie rosse, senza le quali ei non sarebbe entrato in Napoli trionfando, un saluto nobilissimo ce lo dette il nostro Garibaldi, le cui parole trascrivo perché i compagni miei le rileggano e perché i giovani imparino qual linguaggio tenesse ai suoi volontari l'uomo che fu l'amore della gioventù italiana e che seppe insegnarle a combattere, a morire e a vincere i tiranni a dispetto della gente tiepida e meticolosa. Ecco quel che scrisse a noi il gran vecchio dopo aver deposto nelle mani di Vittorio Emanuele l'autorità dittatoria. Ai miei compagni d'armi. Penultima tappa del risorgimento nostro, noi dobbiamo considerare il periodo che sta per finire e prepararci ad attuare splendidamente lo stupendo concetto degli eletti di 20 generazioni, il cui compimento assegnò la provvidenza a questa generazione fortunata. Sì, giovani, l'Italia deve a noi un'impresa che meritò il plauso del mondo. Voi vinceste e vincerete perché siete ormai istrutti nella tattica che decide delle battaglie. Voi non siete degeneri da coloro che entravano nel fitto profondo delle falangi macedoniche e squarciavano il petto ai superbi vincitori dell'Asia. A questa pagina stupenda della storia del nostro paese ne seguirà una più gloriosa ancora, e lo schiavo mostrerà finalmente al libero fratello un ferro arrotato che appartenne agli anelli delle sue catene. Allarmi tutti, tutti, e gli oppressori, i prepotenti, sfumeranno come la polvere. Voi, donne, rigettate lontano i codardi, essi non vi daranno che codardi, e voi, figlie della terra della bellezza, volete prode e generosa prole, che i paurosi dottrinari se ne vadano a trascinare altrove il loro servilismo, le loro miserie. Questo popolo è padrone di sé, egli vuole essere fratello degli altri popoli, ma guardare i protervi con la fronte alta, non rampicarsi mendicando la sua libertà. Egli non vuole essere a rimorchio di uomini a cuore di fango, no, no, no. La provvidenza fece dono all'Italia di Vittorio Emanuele. Ogni italiano deve rannodarsi a lui, serrarsi intorno a lui. Accanto al re galantuomo ogni gara deve sparire, ogni rancore dissiparsi. Anche una volta io vi ripeto il mio grido. Allarmi tutti, tutti. Se il marzo del 1861 non trova un milione di italiani armati, povera libertà, povera vita italiana. Oh, no, lungi da me un pensiero che mi ripugna come un veleno. Il marzo del 61, e se fa bisogno il febbraio, ci troverà tutti al nostro posto. Italiani di Calatafimi, di Palermo, del Volturno, di Ancona, di Castelfidardo, di Isernia, e con noi ogni uomo di questa terra non codardo, non servile. Tutti, tutti serrati intorno al glorioso soldato di Palestro, daremo l'ultima scossa, l'ultimo colpo alla crollante tirannide. Accogliete, giovani volontari, resto onorato di 10 battaglie, una parola da Dio. Io ve la mando commosso di affetto dal profondo della mia anima. Oggi io devo ritirarmi, ma per pochi giorni. L'ora della pugna mi ritroverà con voi ancora, accanto ai soldati della libertà italiana. Che ritornino alle loro case quelli soltanto chiamati da doveri imperiosi di famiglia e coloro che gloriosamente mutilati hanno meritato la gratitudine della patria. Essi la serviranno nei loro focolari, col consiglio e con l'aspetto delle nobili cicatrici che decorano la loro maschia fronte di 20 anni. All'infuori di questi, gli altri restino a custodire le gloriose bandiere. Noi ci ritroveremo fra poco per marciare insieme al riscatto dei nostri fratelli, schiavi ancora dello straniero. Noi ci ritroveremo fra poco per marciare insieme a nuovi trionfi. Giuseppe Garibaldi. La mattina di poi, Giuseppe Garibaldi se ne partiva tacitamente e quasi di nascosto dalla città che la sua sola presenza aveva bastato a far libera dalla soggezione borbonica. Il nostro compito era finito, ma non ne veniva per conseguenza buona e legittima che ci si considerasse così dall'oggi al domani come limoni ormai spremuti e non buoni che a gettarsi via. Noto specialmente quelle 3 parole, perché è fama che fossero pronunziate da Garibaldi nell'atto dell'accomiatarsi dall'ammiraglio Persano, il quale, più affettuoso e meno altiero di molti altri, s'era recato a dirgli addio. Vidi Garibaldi pochi momenti innanzi che partisse. Era calmo e sorridente, secondo il solito, ma qualche suo detto rivelò ciò che ognun di noi sentiva in cuor suo. Lasciava Napoli, contento di se stesso e di noi, ma tutt'altro che soddisfatto del modo con cui l'avean trattato coloro che erano onnipotenti presso il re e che potevano chiamarsi i nuovi padroni. In quell'ora memoranda, egli m'apparve più grande che mai. Garibaldi, tornato povero e privo d'ogni autorità, simile ai grandi del tempo antico, umili dopo i trionfi e contenti della propria gloria, era più nobile e più ammirando del dittatore e del capo di un esercito, in mezzo alle pompe della potenza e degli applausi della folla, devota sempre al sole che più risplende. Lo vedemmo imbarcare, rimanemmo a contemplarlo con gli occhi pieni di lacrime. Ritto sulla barca ed agitante il fazzoletto per salutarci ancora, mentre la robusta voga dei 6 marinai lo allontanava dalla spiaggia. Alessandro Dumas scrisse sul suo giornale L'Indipendente la lista di ciò che l'antico dittatore recò seco da Napoli. Furono pochi sacchetti di caffè e di zucchero, una balla di stoccafissi, una cassa di maccheroni e poche migliaia di lire risparmiate senza che egli lo sapesse da chi gli teneva i conti. Lo stesso Dumas scrisse che di Garibaldi poteva dirsi donava un regno e gli mancava un pane. Il piroscafo che lo accolse per trasportarlo in Caprera si chiamava Washington e parve che il destino volesse affratellati quei 2 nomi gloriosi. Il Washington fu salutato dalle salve del naviglio da guerra inglese ancorato nel Golfo, ma le navi regie italiane non fecero mostra di accorgersi della partenza dell'uomo che aveva liberato mezza Italia. Trovandomi così sovente presso il dittatore, non mi saziavo di studiare quella meravigliosa figura che vive e vegeta era divenuta leggendaria in Italia e fuor d'Italia, ed offriva argomento ai romanzi e ai poemi, come ai racconti popolari, nei quali spesso la sua virtù solea magnificarsi poco meno che con gli attributi del soprannaturale. e piacendomi oltremodo quel poterlo vedere e considerare a tutto mio agio in farsetto, ovvero, come più comunemente si direbbe, in veste da camera, facevo conto di stare al paio coi fortunati che videro da vicino Giovanni de' Medici e Francesco Ferrucci e cotali altri uomini del cui nome e della cui gloria son piene oggi le cronache e le leggende. Così, rammentando il proverbio secondo il quale non si dà grande uomo al mondo per il suo cameriere, mettevo ogni mia cura nello studiare Garibaldi nella intimità della casa per paragonare quest'uomo straordinario, veduto e ammirato dalla gente sul suo cavallo da battaglia e in mezzo alle schiere che seguitavano con infallibili auspici di vittoria nell'animo, l'eroe sempre vittorioso e l'uomo che, posate le armi e deposte le insegne del comando, si rivelava nelle sue vere e semplici sembianze agli occhi dei familiari. Amò la libertà e le si consacrò cavaliere, ma asserì necessaria nei giorni dei pericoli e delle prove penose l'obbedienza alla volontà d'un solo. Fu chi disse averlo innamorato la dittatura con la quale aveva veduto governare le piccole repubbliche dell'America e del Mezzodì, ma credo invece che egli avesse, per dirla così alla buona, la dittatura nel sangue, e che dell'efficacia e della opportunità dell'impero dittatorio si facesse persuaso sempre più per la condizione singolarissima delle imprese e che ebbe a governare, nelle quali, appunto nella prontezza e nell'unità dell'azione, nella fede cieca e nell'amore ad un uomo, era riposto il maggior segreto della vittoria. Quello che non di rado nocque a Giuseppe Garibaldi fu il credere onesti tutti gli uomini e il riputarli egualmente devoti alla patria e scevri d'ogni cupidità, onde accadde spesso che, udendo accusare o dipingere sospetto il tale o il tal altro che con astuzia sopraffine s'era fatto addentro nella sua benevolenza, si adeguava contro quelle che gli parevano cattive lingue e cresceva, anziché sminuire, l'affezione sua per chi ne era accusato indegno. E in quest'argomento egli ebbe a patire frequentissimi disinganni, i quali però non gli insegnarono mai né a pentirsi della troppa sua buona fede, né a farsi miglior conoscitore della gente furba e d'animo ignobile.